la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 6 di dicembre, sono le 16:08 primi. In questo secondo, Oscar Giannino, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast e vi chiede subito di telefonare se siete interessati a darci testimonianze o opinioni su questo argomento. Spesso abbiamo parlato di politiche attive del lavoro rispetto a quelle passive. Oggi facciamo un passo indietro, cioè ci occupiamo di che cosa avviene quando le aziende sono in necessità di dover ridimensionare gli organici e quindi si tratta con i lavoratori e con i dipendenti, oltre che, come è ovvio, non si tratta di quello, è ovvio che poi scatta il diritto agli strumenti di sostegno al reddito, che come sapete sono cambiati in questi anni rispetto alla cassa integrazione, il NASPI e così via. Però il punto è: quali sono i segnali che vengono dalle aziende con i piani di incentivo all'esodo? Di che tipo di interventi stiamo parlando? Di che ammontare? Pari a quante mensilità, per capirci, o addirittura annualità in alcuni casi, uno, per capire ovviamente l'ordine monetario di cui stiamo parlando; secondo, con quali impegni magari aggiuntivi per le imprese ai fini di quello che innumerevoli volte diciamo, la formazione come presupposto, la riformazione in questo caso come presupposto per la rioccupabilità viene proposto dalle imprese nel piano di esodo. La cosa migliore, continuo a dire, sarebbe avere una svolta sulle politiche attive, cioè che ci fosse uno strumento funzionante a livello nazionale su cui Jobs Act è mancato, perché la delega all'Agenzia Nazionale del Lavoro, come sapete, si è risolta allo stato attuale in un esperimento del contratto di ricollocazione che riguarda poche migliaia di lavoratori, ma questo esperimento per il momento, dai dati che abbiamo accumulati, non sta neanche funzionando, perché i lavoratori, di fronte alla condizionalità del programma accedendo a il contratto di ricollocazione, e cioè al fatto poi di essere vincolati dopo la formazione ad accettare a un certo numero di proposte, ad accettare l'offerta di lavoro, altrimenti si rinuncia al sostegno, preferiscono non inoltrarsi in questa strada, sapendo per di più che è solo un esperimento. Però, siccome l'occasione è data dal fatto che oggi sul Sole 24 Ore trovate, se volete approfondire, a pagina 19 un articolo con molti esempi di questo tipo di accordi che si stanno trattando o che sono stati definiti di esuberi delle imprese, con disponibilità dell'impresa a quantificare in maniera significativa gli incentivi all'uscita e anche in diversi casi a impegnarsi per la riformazione dei lavoratori in vista della loro rioccupabilità. Ecco, questo articolo che trovate a pagina 19 sul Sole, firmato da Cristina Casadei, mi ha dato l'idea: facciamone un momento di riflessione. E quindi per chiamare all'800 24 00 24, se siete lavoratori, siete sindacalisti, siete responsabili HR, cioè delle risorse umane di azienda che sono alle prese o sono stati alle prese in questi anni con problemi di questo tipo, quindi piani di incentivo all'esodo, questo è il giorno giusto per portare la vostra testimonianza, sia essa positiva sia essa invece delusa o negativa. Cioè, comunque è utile dare testimonianza di quello che vi è capitato o di cui siete a conoscenza. Il caso da cui parte l'articolo del Sole 24 Ore di oggi è il caso che è attualmente in via di definizione tra l'azienda e i sindacati. Stiamo parlando di un'azienda metalmeccanica, la Motori Minarelli di Calderara, in provincia di Bologna, che dopo una trattativa che era cominciata, come sempre avviene in questi casi, sul numero degli esuberi, in quel caso c'erano 68 esuberi annunciati e sono scesi a 58, è un'azienda che sta nella catena delle forniture, per capirci, della motociclistica, per Yamaha soprattutto. E una volta raggiunto l'accordo sul numero degli esuberi, si è passato poi a trattare l'incentivo all'esodo uguale per tutti, e l'incentivo all'esodo uguale per tutti nel caso della Motore Minarelli di Calderara in provincia di Bologna, beh, a me è sembrato significativo. Non sto dicendo che questa è la regola, sto dicendo questo è l'esempio da cui parte l'articolo di oggi, perché alla Motore Minarelli l'incentivo negoziato all'esodo è di 75.000 euro, quindi stiamo parlando di una cifra che supera i 3 anni di salario, e anche qui oltre all'incentivo monetario all'esodo si è aggiunto un impegno dell'impresa per quello che si chiama l'outplacement dei lavoratori, e attualmente siamo in via di definizione di questo accordo, nel senso che a quel punto l'accordo prevede che ci sia una specie di risoluzione consensuale, i lavoratori ricevono l'incentivo e naturalmente tutto ciò a cui hanno diritto, cioè l'indennità di mancato preavviso, la NASPI e tutte le spettanze di fino rapporto, però in questo caso siamo in presenza di un esempio, come si vede, in cui sono diverse annualità a fronte anche di un impegno aggiuntivo dell'impresa. Allora, con i primi due ospiti in questa trasmissione partiamo da questo esempio, ma per tentare di allargare il campo ai settori in cui operano. Visto che partiamo da questo esempio, abbiamo innanzitutto con noi Roberta Castronuovo, che è la segretaria generale aggiunto della FIMCISL, quindi l'organizzazione della CISL Metalmeccanici di Bologna. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Castronuovo. Grazie a lei, buon pomeriggio. E poi abbiamo il direttore dell'area lavoro e welfare di Confindustria, Pierangelo Albini. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, Castronuovo, partiamo da questo esempio. Io ne ho solo richiamato i tratti generali. Posso chiederle come la pensate, come ci siete arrivati? Però chiedo anche a lei, nell'esperienza vostra territorialmente, è un'eccezione, è una tendenza che è in via di rafforzamento negli anni? Come la definirebbe, Castronuovo? Allora, diciamo che l'accordo della Motore Minarelli è un accordo che viene arriva diciamo dopo 10 anni di crisi e varie riorganizzazioni, non è la prima procedura di mobilità. Però se vogliamo porre l'attenzione sulla parte della formazione e dell'incentivo, quindi l'outplacement che abbiamo previsto, questa è stata diciamo così l'ultima parte della trattativa, quando era complicato riuscire a trovare una soluzione, perché l'azienda in questi ultimi anni ha dimenticato completamente la formazione professionale. Quindi al di là dell'incentivo, che anche prima delle battute finali era comunque significativo, per le lavoratrici, perché parliamo di un'azienda prettamente femminile, sì, era complicato decidere di uscire, perché negli ultimi 10 anni la tecnologia è avanzata in maniera importante, ma non la professionalità dei lavoratori. La Motore Minarelli non ha investito minimamente nella formazione, e per noi questo è un grave danno che è stato fatto alle lavoratrici, che adesso si trovano a mettersi sul mercato del lavoro, in un mercato del lavoro che è ripreso sicuramente a Bologna, ma che richiede professionalità. La casa madre, la Yamaha, invece ha sempre dato la possibilità di fare formazione esclusivamente sull'organizzazione del lavoro tipica della Yamaha, che quindi è difficilmente spendibile all'esterno. Da qui l'importanza anche sottolineata con i lavoratori di scegliere di fare un percorso di outplacement e quindi migliorare la formazione personale. E, diciamo che nonostante anche il contratto nazionale ultimo dei metalmeccanici abbia posto tanta attenzione sulla formazione, perché la consideriamo un valore aggiunto per il lavoratore ma anche per la competitività dell'azienda, questa azienda non ha invece investito neanche nell'ultimo anno, neanche quando era previsto nell'ultimo accordo di cassa integrazione. E la tendenza che osservate qual è? La tendenza è sicuramente quella di dare, soprattutto per quando parliamo di aziende di proprietà di multinazionali, a scegliere di dare incentivi importanti come questo, ma anche come quello della Saeco, ma difficilmente di discutere del futuro dell'azienda. Per cui si stanno alzando gli incentivi rispetto al passato, ma la discussione sull'industria sull'industria, la competitività dell'azienda è sempre più complicata. E io sostengo che bisognerebbe in qualche modo riconcentrare l'attenzione verso le politiche attive, e lo dico con tutto rispetto anche per chi guida l'Agenzia Nazionale del Lavoro. Ho avuto l'impressione a lungo che la resistenza venisse anche, posso sbagliare, da una parte del mondo del sindacale che viveva soprattutto a favore della protrazione del vecchio regime di cassa integrazioni, dicendo finché c'è la crisi aperta, finché resta un gap di occupati così elevato ancora da recuperare, malgrado gli andamenti degli ultimi 3 anni rispetto al 2008, è meglio non credere al nuovo sistema. Voi come la pensate invece, Castronovo? Noi la pensiamo assolutamente in senso contrario, nel senso che purtroppo le aziende che cercano personale ci sono, cercano professionalità non tanto alte o basse, ma specifiche, specifiche. E quindi ci ritroviamo con tante persone fuori dal mercato del lavoro e tante aziende che avrebbero invece bisogno di lavoratori che non trovano. Per questo abbiamo insistito che ci fosse l'outplacement nell'accordo della Motori Minarelli, e ci auguriamo che la richiesta da parte dei lavoratori di aderire a questo tipo di percorso sia così importante da spingere poi l'azienda a darlo non in più non in meno rispetto all'incentivo, ma invece di darlo oltre i 75.000 euro. Perché anche questo è importante, molto spesso si prevede l'outplacement perché il sindacato ci crede, soprattutto noi come FIM crediamo tanto nella formazione e la formazione come metodo per riuscire a ricollocarsi nel mondo del lavoro, ma le aziende la mettono come a decurtazione dell'incentivo, e quindi per paura di rimanere senza possibilità economica spesso i lavoratori preferiscono denaro. In maniera, a mio avviso, l'ho detto anche in assemblea ai lavoratori, in maniera miope. Beh, perché ovviamente è la formazione quella che aumenta l'occupabilità. Assolutamente, oggi più che mai. Con quello che avviene naturalmente nella trasformazione di filiere come queste. Allora, sentiamo Pierangelo Albini, direttore dell'area lavoro e welfare di Confindustria. Lei oggi, in questo articolo che ho citato, dice: in questi anni sono avvenute due novità, ci sono due fattori, uno delle quali rema, diciamo, in direzione positiva rispetto a quello che stiamo auspicando oggi, partendo da un solo esempio, quello della mina nella motore. Invece l'altro negativo, di che si tratta, Albini? Ma è un fenomeno che era perfettamente intuibile già 5 anni fa, quando la legge Fornero è intervenuta sul fronte pensioni, allontanando di 5 anni l'età del pensionamento e riconducendo gli strumenti degli ammortizzatori sociali a quello che dovrebbero essere il loro naturale scopo, quello cioè di aiutare le imprese in un momento di difficoltà, ha costretto tutti a fare i conti con una pessima abitudine che aveva il nostro paese di gestire le crisi attraverso sostanzialmente le politiche passive. Questo era naturalmente una soluzione che consentiva di contemperare gli interessi delle imprese, di andare incontro alle difficoltà che naturalmente i processi di ristrutturazione determinano per le famiglie, per le persone che perdono un posto di lavoro, rendeva da un lato difficile il risanamento aziendale, trascinando crisi per anni attraverso gli ammortizzatori sociali, e dall'altro giustificava il fatto che i 29 miliardi che tutti gli anni questo paese spende per le politiche del lavoro fossero interamente destinati agli ammortizzatori sociali, esatto, senza mai costruire niente che fosse finalizzato alle politiche attive. Ci è voluto 5 anni di tempo, di fatiche, per arrivare prima a fare un accordo con CGIL e CISL UIL il 1° settembre dello scorso anno, in cui, diciamo, abbiamo condiviso politicamente l'idea di cominciare a gestire la crisi in una logica, come dire, di reimpiego delle persone che sono in qualche modo destinate a essere esodate dal mondo del lavoro, e dall'altro avere una sorta di supporto da parte anche dello Stato per avere degli strumenti che facilitino, come dire, la destinazione di risorse per il reimpiego delle persone. E questa è una rivoluzione copernicana per il nostro mercato del lavoro. Adesso finalmente nella legge di bilancio avremo qualcosa che si avvicina molto all'accordo del 1° di settembre, non è esattamente ciò che avremmo voluto, ma diciamo così, rende possibile questi percorsi, e quindi adesso in mezzo a tante difficoltà e a tante fatiche bisogna lavorare per cambiare gli equilibri del mercato del lavoro. Senta, ma per in vista di un strumento nazionale condiviso con le associazioni datoriali, col sindacato prima, ponderato, ma che sia poi a quel punto il destinatario di quote crescenti della spesa sociale che noi destiniamo agli ammortizzatori, costruito tutto secondo un certo modello di condivisione di pilastri nuovi per le politiche attive. Secondo lei quanto bisogna ancora aspettare? Perché attualmente, come oggi, ovviamente a seconda della varietà delle condizioni, della finanza dell'impresa o della capofila dell'impresa che è in crisi in via di ristrutturazione, a seconda di contesti che sono ovviamente molto variabili, si producono, e a seguito magari anche di relazioni industriali e aziendali diverse, si producono condizioni nei piani di incentivo aggiuntivo aziendale all'esodo, sia monetari che nel impegno aggiuntivo dato e contrattato dalle imprese per l'outplacement, condizioni che sono a macchia di leopardo, in cui ovviamente c'è una situazione di variabilità assoluta, e quindi in realtà non troppo, tra virgolette, digeriti dal punto di vista del pubblico. È sempre meglio di niente, perché esprime, come ovvio, una consapevolezza che si fa strada, ma quanto secondo lei dovremmo ancora aspettare per una svolta nazionale condivisa? Ma è difficile dare una risposta a questa domanda, perché bisognerebbe lavorare sui fondamentali. Lavorare sui fondamentali vuol dire mettere a posto le contribuzioni sociali di questo paese. L'imprenditore è obbligatoriamente costretto, naturalmente dal legislatore, ad assicurarsi contro l'ipotesi della disoccupazione, ma le aliquote che si corrispondono sono estremamente diversificate a secondo dei settori, e diciamo la quota di spesa sociale che va sulla disoccupazione, sul sostegno quindi alle persone che hanno perso una capacità di reddito, è, come in quasi tutti i paesi del mondo, in larga misura a carico della fiscalità generale. Sì. Però andrebbe cominciata un'operazione di riequilibrio delle contribuzioni obbligatorie in un ridisegno organico di quelle che sono le tutele che devono essere immaginate per le persone, cambiando completamente il contesto nel quale noi le abbiamo progettate. Cioè, il nostro sistema sociale, di protezione sociale, è stato pensato negli anni 70, quando sostanzialmente la manifattura, l'industria avevano certe caratteristiche, l'economia aveva certe caratteristiche, e anche tutto il sistema della protezione sociale è stato pensato per un contesto in cui le persone iniziavano una propria carriera professionale in un'azienda e normalmente la finivano lì, alla vigilia della pensione. Oggi il sistema di protezione sociale va ripensato, e va ripensato in un contesto molto più attivo, molto più dinamico, in cui sicuramente i sussidi sono una parte, ma le politiche di sostegno, le cosiddette politiche attive, sono l'altra parte fondamentale che deve essere garantita. E qui la strumentazione va realizzata. Noi abbiamo problemi enormi di coordinamento fra il centro e la periferia, fra il livello nazionale e il livello regionale che ha le competenze, fra il pubblico e il privato. Abbiamo banche dati che non dialogano fra di loro, abbiamo anche sistemi che sono francamente rendono difficile la gestione di una problematica che poi ha dei risvolti umani e sociali delicatissimi, e che nel momento in cui incrocia anche le difficoltà della burocrazia, come dire, diventa ancora più mortificante per le persone. Ecco, lei ha usato molti argomenti fondati e oggettivi, naturalmente questo significa che non è dietro l'angolo. Io continuo a pensare che dovrebbe essere una priorità da parte della politica, in ragione della nostra demografia, in ragione soprattutto del fatto che i tempi di reazione al barriere della domanda sono proprio cambiati in maniera, accelerando in maniera incredibile, cambiando quindi i cicli produttivi e cambiando la specifica necessità di competenze tecniche. È ovvio che benissimo, gli abbiamo gli incentivi, il super e l'iperammortamento, ma il problema è che poi i nuovi sensori di internet delle cose applicati a fasi sempre più estese della produzione hanno bisogno di persone che sappiano interfacciarsi e quindi siano dotati delle competenze adeguate per farlo. Che dice Castronuovo dell'elenco di ragioni che non inducono un eccessivo ottimismo al bene della Confindustria? Ma io credo che bisogna anche iniziare un percorso di educazione delle persone anche all'interno delle aziende, nel senso che quando noi ci troviamo a parlare con i lavoratori e parliamo di formazione sembriamo un po' degli alieni, quindi probabilmente se ci fosse, e noi l'abbiamo messo nel contratto nazionale col diritto soggettivo alla formazione che deve essere un diritto, nel momento in cui le persone sono abituate, che non è che finita la scuola è finita la formazione, ma veramente abituiamo le persone, i lavoratori e anche le aziende, mi viene da dire, perché quando parlo con le aziende di formazione sembriamo dei matti, allora io credo che poi se abituiamo le persone alla formazione continua veramente ce l'avranno in azienda, ma anche quando perdono il lavoro non gli sembrerà una cosa stranissima, impossibile, anche le politiche attive sulla formazione e sulla propria professionalità. Lei dice quindi è una rivoluzione che si costruisce dal basso, io sono molto d'accordo. Sì, viste le condizioni, ma questo sono molto d'accordo, però viste le condizioni in cui stiamo nel mercato del lavoro, e lo dico al netto di tutti i risultati, a riconoscere la Jobs Act, i 900.000 occupati in più eccetera eccetera, però il problema, cari ascoltatori, non dimenticatevelo, oltre al gap da recuperare di occupati rispetto al 2007, resta, sottolineo, resta, perché è un dato purtroppo strutturale pre-crisi italiano e precedente pure all'euro, se qualcuno di voi aderisce alla spiegazione monocausale del complotto internazionale contro l'Italia, che vedo che sta mietendo nuovi sostenitori, però il problema è che preesiste un problema strutturale di troppo bassa partecipazione al mercato del lavoro delle nostre forze in età di lavoro. Capite che quando si ha un tasso di occupazione che è al 58%, cioè 20 punti inferiore alle parti nord europee, noi abbiamo un enorme problema che non è solo quello del recupero del gap, noi abbiamo un enorme problema che preesiste a chi occupato perde il reddito da lavoro per ristrutturazione aziendale, che è la bassissima occupabilità che la nostra formazione pubblica, quella di base, secondaria, terziaria e post terziaria, dà in termini di dotazione di skills che sono quelle richieste per essere poi assunto, per cui poi le imprese, non solo in presenza di un esercito di riserva di disoccupati, ma in generale tenderanno a rivolgersi a chi ha già una formazione più avanzata, quella adeguata per il tipo di competenze richieste, e questo spiega uno degli altri tanti dati che non vanno giù nel gargarozzo rispetto alla distribuzione per corte anagrafiche degli effetti dell'occupazione aggiuntiva negli ultimi 3 anni, che come sapete ha premiato gli over 50, un pezzo fondamentale è costruito dagli effetti della Fornero sugli innalzamenti dei requisiti anagrafici dell'età per la pensione di vecchiaia, chi ci ricordava Pierangelo Albini, ma l'altro pezzo è la bassa formazione di gente che magari giustamente ha studiato tanti anni, c'è la laurea in tasca e dice nel mio mercato del lavoro però su cui mi affaccio questa laurea viene valutata primo pochissimo, e ne abbiamo già parlato in questi giorni, ma secondo in realtà non viene identificata come portatrice di alcuna competenza rispetto a quelle che sono necessarie e richieste dalla domanda di lavoro. Allora, intanto grazie a Pierangelo Albini, grazie a Roberta Castronuovo, adesso andiamo a vedere che cosa succede in borsa, un po' di pubblicità e poi vediamo cosa succede in un altro bel pezzo di occupazione italiana, nel mondo delle banche, con tutto quello che è successo, perché abbiamo con noi il segretario della FABI, la Federazione Autonoma Bancaria Italiani, e chiediamo a lui le banche come si stanno comportando rispetto, in quel caso stiamo parlando di decine e decine e decine e decine di migliaia di esuberi che sono stati trattati e definiti in questi anni. E tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end. Eccoci qui, tornati in diretta. Stiamo parlando di incentivi all'uscita, impegni alle imprese in ristrutturazione che sono nelle trattative sindacali, in cui, oltre, come ovvio a quel punto, ai sostegni previsti nel nostro ordinamento, però iniziano ad aggiungere anni interi di retribuzione come incentivo all'uscita, perché sono anche in presenza delle imprese degli effetti della legge Fornero, come abbiamo ricordato, e in alcuni casi, che speriamo si estendano sempre di più e comunque iniziano a diventare numerosi, almeno nelle imprese medio-grandi, anche con impegni di formazione per la rioccupabilità. E adesso andiamo a vedere che cosa succede, e è successo in questi anni, in uno dei settori in cui si sono persi decine di migliaia di addetti, cioè il settore bancario, per effetto di due grandi fenomeni. Da una parte, e lo sapete, lo sappiamo, ce ne siamo occupati innumerevoli volte, la crisi rappresentata dall'impatto che sulle banche è stato esercitato da alcuni problemi che hanno condotto alcune banche alla risoluzione. Dall'altra, però, a una modifica strutturale del modello di gestione delle imprese di credito nel nostro paese, che diventerà ancor di più con le nuove regole che entrano in funzione l'anno prossimo, oramai tra pochissimi giorni, la MiFID 2 per esempio, con i nuovi impegni di profilazione e di comunicazione, oltre che di valutazione ponderata del rischio di ogni cliente, la PSD2, cioè la direttiva europea sulla portabilità dei dati, che è un altro fattore, secondo me colpevolmente sottovalutato, del fatto che accrescerà inevitabilmente la concorrenza tra intermediari finanziari, e di cui dovrebbero essere consapevoli molto i clienti bancari, perché il diritto alla portabilità dei dati significa ovviamente il diritto preventivo a richiedere che i propri dati siano classificati in una maniera diversa da parte della banca o dell'intermediario di cui si è comunque cliente. Tutto questo in presenza degli effetti del fintech, cioè di crescente automazione fino all'intelligenza artificiale per l'offerta delle indicazioni e dei consigli, almeno per alcune classi di risparmiatori e per alcuni tipi di asset, che anch'esso ha un impatto, come è evidente, sul numero e la tipologia degli occupati in un'impresa bancaria. Per effetto di tutte queste cose, insomma, da una parte non bisogna stupirsi di quello che è avvenuto in termini quantitativi, e dall'altra il problema resterà ancora aperto per un bel po' nel mondo bancario. Allora abbiamo con noi un protagonista dal punto di vista sindacale, con il suo sindacato, delle vicende delle trattative sia contrattuali che nei casi di problemi di ristrutturazione con le banche italiane, perché il FABI, cioè la Federazione Autonoma Bancaria Italiana, è diventato il sindacato di riferimento di settore sempre più in tutti questi anni, ed è con noi il segretario Lando Maria Sileoni. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a lei, buonasera. Partiamo con ricordare ai nostri ascoltatori quanti purtroppo ne abbiamo persi di occupati nelle banche in questi anni. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso 40.000 posti di lavoro, ne perderemo altre 22.000 per i prossimi 4 anni per effetto di accordi già sottoscritti fra le organizzazioni sindacali aziendali e di gruppo negli ultimi 15 mesi. Tenga presente che non sono licenziamenti, ma sono prepensionamenti, sì, volontari. Ecco, nel caso delle aziende, anche qui secondo me distinguendo, ci sono grandissime aziende che insomma stanno bene dal punto di vista dei bilanci, degli utili eccetera, non sono tante, altre che stanno un po' meno bene ma sono comunque solide. Allora, la tendenza affermata negli accordi di ristrutturazione in questi anni, di cui è stato protagonista, ci parla di una media di incentivi all'esodo in termini di annualità di retribuzione 1, 2 e di impegni per l'outplacement aggiuntivo per le banche rispetto a chi accetta di uscire in maniera consensuale dal perimetro aziendale, di che tipo, per farlo capire a chi ci ascolta? Sì, intanto mi permette solo di aggiungere un aspetto. Lei ha parlato di due cause, io ce ne metterei una terza, che sono gli scandali bancari che hanno prodotto una perdita importante di posti di lavoro. Noi abbiamo dal 2000, tramite una conquista di carattere appunto sindacale, abbiamo dal 2000 il nostro fondo esuberi, che è interamente finanziato dalle banche, e funziona così. Un lavoratore al quale manca 5 anni fino a qualche mese fa, oggi fino a 7 anni, per poter accedere al prepensionamento chiede volontariamente di essere collocato in prepensionamento e percepisce tramite accordo aziendale o di gruppo tra l'80 e l'85% dell'ultimo stipendio senza lavorare. Fino a 7 anni? Sì, da poco, da qualche mese fino a 7 anni. Quindi noi con questo sistema abbiamo ottenuto 3 importanti obiettivi. Il primo, abbiamo scongiurato i licenziamenti, siamo state l'unica nazione in tutta Europa. Il secondo, abbiamo ottenuto il ricambio generazionale, perché ogni 3 lavoratori che escono su base volontaria, cioè ogni 3 lavoratori che vanno in prepensionamento su base volontaria, noi assumiamo una persona in banca. E con questo sistema negli ultimi 5 anni, a fronte di 40.000 lavoratori che sono stati prepensionati, abbiamo ottenuto circa 19.000 nuovi ingressi. Esatto. Il terzo aspetto, mi scusi, sì. Abbiamo con questo sistema gli ingressi sono tutti a tempo indeterminato, quindi abbiamo sconfitto il cosiddetto precariato. Per il precariato. Ma in questi anni, con i numeri che crescevano, il fondo è sempre riuscito a essere autofinanziato o con apporti da parte della fiscalità generale? No, lo Stato non ha mandato un euro, tranne, come dire, l'ultimo intervento importante del governo rispetto all'intesa del salvataggio delle 2 banche venete. In precedenza non c'era stato mai un intervento dello Stato. E la capienza c'è a oggi per gli altri 20.000 in arrivo degli accordi già firmati? C'è, sì. C'è ancora una capienza, perché c'è una disponibilità che le banche hanno, ma per la prima volta nella storia delle relazioni sindacali del settore il governo, cioè esattamente un anno fa, per gli esuberi bancari ha preventivato 825 milioni spalmati in 3 anni. Perché qui c'è anche una cosa che l'abbia ripetuto molte volte, dicendo più i numeri cresceranno, più si pone un problema di ordine, così dire, generale nel conto del dare e dell'avere. Cioè, siccome le banche continuano per il resto, come tutte le altre imprese, a finanziare, perché abbiamo visto che la spesa sociale che poi noi destiniamo al sostegno al reddito e alle politiche attive viene soprattutto, cioè, per una parte importante, la fiscalità generale, le banche hanno detto: noi però già ci facciamo carico della parte che riguarda noi, in maniera, con una modalità che lei ha spiegato, che ovviamente è propria del settore. E quindi, caro Stato, mettiti una mano sulla coscienza rispetto a quello che ci chiedi in più, non è vero? Sì, è vero, ma le dico che l'intervento dello Stato c'è stato soltanto in questi ultimi mesi per via degli scandali, nel senso che tre banche delle 4 good bank sono state prese da UBI, una è stata presa da Biper, ecco, lì c'è stato un intervento dello Stato per quanto riguarda i cosiddetti esuberi di personale. Precedentemente c'era stato per Banca Intesa, per Monte Paschi non è stato dato un euro. Quindi conseguentemente diciamo che il settore è sempre riuscito a risolvere all'interno il proprio... E per quello che riguarda l'effetto che le nuove tecnologie, i nuovi modelli organizzativi eccetera, avranno sugli occupati, di formazione, su quello nei contratti, come siete messi? Lei mette il dito sulla piaga, perché sulla digitalizzazione, sulle nuove tecnologie, noi sono ormai almeno 2 anni che cerchiamo un confronto preventivo con l'ABI, con i gruppi bancari, ma chi fugge da una parte e chi fugge dall'altra, perché neanche loro sanno bene come gestire il fatto. L'aspetto fondamentale, questo lo sto dicendo da tempo, è che secondo me le banche non intendono investire in maniera molto, molto concreta sulle nuove tecnologie, perché qual è il problema, dottor Giannino? Che non vogliono perdere il potere contrattuale con le imprese e con le famiglie, perché se tutto fosse digitalizzato come negli Stati Uniti, il merito creditizio sarebbe certo, no? Quindi io azienda metto i dati in una macchina, la macchina li legge e da lì comunque viene fuori il mio merito creditizio. Invece le banche vogliono avere il potere contrattuale, il potere personale anche per quanto riguarda gli altri dirigenti, di contrattare, no, con l'impresa e con la famiglia il credito. Quindi investimenti importanti in questo settore ci sono soltanto sulle operazioni cosiddette standard. Cioè prelevamenti, bonifici. Però Sileone, io temo un po', infatti io apprezzo molto il fatto che siate voi a porre il problema alle banche, perché io temo che poi gli effetti si scateneranno invece a catena di fronte al fatto che nuovi entranti che possono essere piccole banche che diano dei modelli aggressivi da questo punto di vista, come magari anche grandi banche internazionali che facciano una riflessione su questo e determinino a quel punto movimenti di, tra virgolette, scelta diversa dei clienti, con migrazione di clienti. Allora a quel punto credo che si scatenerà questa cosa, non so dire quando, ma è un po' inevitabile visto il nuovo quadro regolatorio e gli avanzamenti tecnologici con cui siamo alle prese. Io posso solo dire, fate benissimo a insistere, perché capisco le banche provate da questi anni e che hanno ancora oggi un costo di raccolta che rispetto al margine di intermediazione abbattutosi a zero, del resto abbiamo avuto i bassi tassi per dare una mano allo Stato, ecco che cosa è successo. Però detto questo, il problema per loro si porrà, perché il problema della redditività nei bilanci bancari è il primo problema fondamentale una volta usciti dalla crisi, al netto degli scandali, delle male gestioni del credito relazionale e quello degli amici e nemici che ha ricordato lei. Quindi in questo tenete gli occhi aperti, perché sennò credo che basarsi solo su l'autosostenibilità, che comunque è un giusto merito del settore bancario, non significa che poi a quel punto le nuove competenze, se non ci si spende per formarle avendo gente dentro, si possono formare da una parte all'altra. A quel punto per le banche sarà un nuovo problema di redditività. Quindi intanto io gliene rendo merito e la ringrazio. Adesso andiamo a vedere cosa succede sulle strade e poi ci sono le vostre telefonate. La versione di Oscar. Allora eccoci qua, tornati in diretta. Nel frattempo dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche si va verso il sì all'audizione, che come avete capito è genera tante attese politiche, cioè quella di Federico Ghizzoni, cioè dovrebbe essere quello che dice sì o no, me l'ha chiesto il ministro Mariana Boschi, di intervenire con un credit su Banca Etruria, e dovrebbe essere questa la decisione che prende la commissione parlamentare d'inchiesta a poche ore dall'ufficio di presidenza. Questo è quello che battono le agenzie. E allora iniziamo a sentire quello che pensate voi su questo tema un po' delicato oggi, gli accordi, diciamo, di separazione consensuale con soldi in più per le imprese e impegni soprattutto per la formazione. Iniziamo con Diego da Latina. Prego Diego. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora senta, io volevo esporre la mia esperienza in un'azienda piccola, però non una grande azienda, comunque sopra i 25 dipendenti. Sì. A un certo punto questa azienda deve aver avuto un problema, quindi sono creati dei contrasti e mi è stato proposto l'incentivo a un esodo. E naturalmente io sono andato a parlare con il commercialista dell'azienda, con dei consulenti interni, che mi hanno prospettato di chiedere 6 mesi, o meglio di contrattare per 6 mesi. Naturalmente nel vostro caso, stante la dimensione aziendale, erano trattative individuali senza la mediazione del sindacato. Forse c'era necessità, però diciamo che io sono andato a contrattare perché avevo anch'io, ormai avevo compreso che non c'era più un rapporto, un rapporto sottostante. Quando siamo andati in conclusione, è diventato uno strumento con cui l'azienda ha approfittato. Per quale motivo? Che le dimissioni le avrebbero elargite nel momento dell'ultima del TFR. Sì. E non è stato fatto dal 2010. Questo ha creato naturalmente un contenzioso che è ancora aperto alla seconda udienza. Perché un tribunale, naturalmente i tribunali lenti. Quindi perché dico questa cosa? Che tutte le dimissioni incentivate, perché questo è un consiglio per chi capita, capita la condizione, certo. Devono essere impostate e seguite da un sindacato, perché la trattativa fra privati rischia di ridursi appunto in uno strumento dell'azienda di ricatto e poi magari di profilare rischi molto elevati di inadempienza, per cui poi campa cavallo e devi fare l'impugnativa a spese tue, no? Nonostante sia una causa di lavoro. Sì, nonostante sia una causa di lavoro. Allora intanto grazie, perché era proprio anche questo tipo di testimonianze che servono e che io speravo di raccogliere. Grazie a Diego, naturalmente abbracci, solidarietà, non è che la ringrazio col sorriso sulle labbra, perché anni e anni di attesa, insomma, ci siamo capiti. Francesco da Pisa. Francesco, qual è la sua esperienza? Sì, buonasera Oscar. Volevo portare la mia esperienza in quanto nel 2014 ero dipendente di una multinazionale della competizione auto a Livorno. Sì. E questa azienda era sotto contratto di solidarietà, pertanto ufficialmente non poteva chiudere. Sì. Pertanto insieme al MISE è stato trovato un accordo di esodo incentivato con tutta una serie di di facilitazioni da parte dell'outplacement con agenzie interinali di outplacement. Mm-hmm. Per cui io ho fatto un esame di coscienza al tempo, avevo 34 anni e ho deciso di in autonomia di non usufruire di questi soldi, né tantomeno dell'agenzia di outplacement, di trovare un nuovo lavoro, ricominciando un attimino da zero. E poi con gli ex colleghi ci siamo sentiti. In realtà, e lei ha potuto comparare l'esperienza di chi l'aveva accettato e di chi no, come lei? Certo, sì, sì. In realtà l'outplacement è stato solamente, parlo nel 2014, adesso non ho esperienza di quello che può essere. Però l'outplacement è stata una presa in giro, ecco. In quanto le agenzie interinali si preoccupavano solamente di aggiustare i curricula. Non c'era nessun impegno concreto quindi delle formazioni? No. Simulando degli eventuali colloqui di lavoro che non c'erano mai stati, pertanto l'80% di 400 dipendenti, perché si parla di una realtà non piccola, l'80% dei dipendenti hanno trovato fortunatamente lavoro, ma non però per i fatti loro, non nel quadro di quell'accordo. Francesco, io ho l'impressione che moltissime di queste testimonianze varrebbe la pena continuare a raccogliere e mandarle in onda, chissà che non lo rifacciamo e così diamo una sensazione di come ci sia bisogno di un accordo quadro nazionale per le politiche attive, perché ci sono esempi positivi ma ci sono anche tanti esempi negativi. Io sostengo le imprese ma non sono cieco, cari ascoltatori, ed è solo così che possiamo andare verso un mondo diverso, perché in tanti dicono e poi non fanno, e sto in questo caso parlando anche delle imprese. Continuate con Radio 24, appuntamento 8:15 domani con me, Luca Talese, a 24 mattina e poi alle 16 domani come oggi alla versione di Oscar.